Buongiorno Alessandra, buongiorno Simone. Il Nobel per la medicina di questa edizione viene assegnato a 3 virologi. Il premio è stato dato ad Harald Zürhausen per il suo lavoro sulle cause del cancro della cervice e a Françoise Barré-Sinoussi e a Luc Montagnier per la scoperta del virus che causa l'AIDS. Quindi dei virus di cui noi tutti abbiamo sentito parlare. In linea con noi abbiamo il professor Giuseppe Remuzzi che ci aiuta a commentare questa notizia, coordinatore delle ricerche del Mario Negri di Bergamo. Buongiorno professore. Buongiorno, abbiamo il Nobel, François Barré-Sinoussi e Luc Montagnier hanno scoperto il virus della immunodeficienza. 25 anni fa precisi, Montagnier scopriva che la causa dell'AIDS era il virus dell'HIV. È stato un momento per cui il mondo ha tirato un respiro di sollievo. L'AIDS era una malattia misteriosa, giovani adulti senza difese immunitarie avevano infezioni mai viste prima e morivano e nessuno sapeva il perché. Da allora al mondo si sono infettati 60 milioni, ne sono morti 25 milioni, adesso le persone infette nel mondo sono 33 milioni e 2 milioni e mezzo si sono infettati solo nello scorso anno, più di 2 milioni sono morti. La scoperta di Montagnier è fondamentale perché abbiamo potuto, attraverso questa scoperta, capire con che nemico avevamo a che fare. Abbiamo potuto sviluppare dei farmaci, abbiamo potuto fermare l'epidemia e adesso c'è persino il modo di prevenirla. Non meno importante il contributo di Harald Zürhausen, infatti il premio Nobel lo dimostra, nell'individuazione di una delle cause del cancro della cervice, l'HPV, l'Human Papilloma Virus. Certo, Harald Zürhausen è stato professore, lui si è formato a Düsseldorf, è stato professore del Centro di Ricerche Cliniche per il Cancro a Heidelberg, in Germania, una grande università. Quello che succede è che loro sono andati contro la visione prevalente che il tumore fosse dovuto a cause diverse dai virus. Loro hanno trovato nel tumore la presenza di virus, hanno potuto identificare questo virus, hanno visto come era fatto e hanno legato in modo assoluto il virus a 100 tipi di virus diversi al 70% dei casi di tumore. Ce ne sono tanti appunto di questi virus. Loro hanno trovato i primi 3 e questo ha aperto la strada ha tantissime ricerche. Il cancro del collo dell'utero è il secondo tumore femminile nel mondo, dopo quello del seno, colpisce soprattutto i paesi poveri, l'80% degli 500.000 casi all'anno, questa è una stima dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono nei paesi poveri. In America ci sono 10.000 casi all'anno, in Italia 3.500. Questa scoperta è fondamentale per aver capito al di là del problema del collo dell'utero, e già questo sarebbe molto, che forse tanti altri tumori hanno un'origine virale e saperlo potrebbe consentirci di sviluppare delle terapie diverse, per esempio i vaccini, come abbiamo il vaccino per tante malattie virali, per il morbillo per esempio, o abbiamo avuto per la poliomielite. Professor Remuzzi, io la ringrazio per essere stato con noi e per averci aiutato a commentare questa notizia, le auguro una buona giornata. Grazie. E per il momento è tutto, vi ripasso la linea.